innanzitutto per fare una canzone impegnata bisogna parlare in questo modo e non smettere mai di dire parole una con l'altra, poiché basta cambiare un accordo e mettere un poco di voce più alta e dire qualche altra stronzata, impegnarsi a urlare, a dire cose che non sai, cose che non pensi mai. Okay.